Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Lunedì 7 giugno, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutte su Liberi Dentro ed Uradio, il nostro programma Talk che parla tra il carcere e la cittadinanza. Buongiorno anche ad Antonella Cortese, sempre qui con me però da Parma. Ciao Antonella, buongiorno. Buongiorno Caterina e buongiorno a tutti. Allora, la nostra cronaca sociale oggi ci porta a parlare di infermieri, infermieri nei penitenziari, operatori dimenticati, leggo da infieristicamente.it a cura di Maria Aluisa Astadi, perché il 92,65% degli infermieri che lavorano nei penitenziari sono risultati esposti ai rischi da contagio da Covid, essendo comunque venuti a contatto direttamente con i detenuti positivi. Perché in qualche modo se la diffusione da contagio Covid è stata ampiamente studiata in ambito ospedaliero, scarsamente si è indagato invece nel mondo delle carceri, che per antonomasia sono sensibili alla rapida diffusione delle epidemie per fattori legati naturalmente all'ambiente, al sovraffollamento, la scarsa ventilazione, gli spazi chiusi e ristretti che caratterizzano proprio gli istituti penitenziari. E anche colpiscono non solo i detenuti, ma anche il personale penitenziario che si trova lì a lavorare e che indubbiamente è esposto a contagio. L'infermiere è la figura che entra più frequentemente a contatto con i detenuti per garantire l'assistenza di qualità e anche quando le possibilità di cura sono compromesse, ma è anche colui che corre quotidianamente, si è visto in questi mesi di contagio in particolare, il rischio nello svolgimento del proprio lavoro. Caterina, senti, io andrei un po' più a fondo sulla figura dell'infermiere che lavora nei penitenziari. Da quanto tempo entra nei penitenziari? Ma infatti bisogna fare un po' un passo indietro anche nella disciplina che regola l'ingresso di queste figure all'interno del carcere. La presenza del personale sanitario negli istituti penitenziari viene prevista, pensa Antonella, per la prima volta nel 1931 dal regolamento carcerario scaturito dal Regio Decreto, sempre di quell'anno. Poi con la legge di riforma dell'ordinamento penitenziario 1975 viene superato il regolamento del 1931 e così le amministrazioni penitenziarie hanno per la prima volta la facoltà di avvalersi di pubblici servizi che vengono introdotti all'interno, come anche la figura dello psichiatra e del medico specialista. Ma si dovrà attendere il 1992 per una circolare da parte del Ministero della Giustizia con la quale inizia un percorso, un approccio integrativo nel considerare la garanzia delle cure e della sicurezza all'interno delle carceri. Da ultimo è stato solo e quindi recentissimo nel biennio 2005-2007, recentissimo insomma in termini un po' allargati, lo Stato e le Regioni si sono messe d'accordo, diciamo, con una commissione tecnica allo scopo di redigere delle linee guida e una proposta di legge per il definitivo passaggio di competenze in ambito sanitario e penitenziario, per fare sì che il personale sanitario sia riconosciuto come figura professionale organizzata e integrata con la rete assistenziale territoriale. Senti, a tal proposito vorrei chiederti a quali rischi sono incorsi medici e infermieri proprio nel periodo della pandemia. Ma in uno studio pubblicato sulla rivista Professioni Infermieristiche è stato analizzato e valutato il rischio da esposizione Covid-19 negli infermieri operanti nel contesto carcerario italiano. Quindi hanno partecipato a questa indagine 204 infermieri di area penitenziaria italiana ed è emerso che la quasi totalità del campione ha riferito di essere venuta a conoscenza della presenza di almeno un paziente positivo al Covid. E 185, quindi il 90% circa, hanno fornito assistenza diretta a un soggetto positivo. E di questi il 60% si è trovato almeno una volta a distanza a meno di un metro dalla persona contagiosa. Inoltre 116 persone, 116 infermieri, quindi il 56% del campione, sono inoltre entrati direttamente in contatto con l'ambiente in cui è stato visitato o assistito un paziente positivo al Covid. Quindi sono dati in qualche modo che ci mostrano lo scenario del rischio non solo per i detenuti in questo periodo di lockdown, ma anche per le persone preposte alla tutela della loro salute. Caterina, come ogni settimana tu ci presenti un artista che ha avuto qualche guaio con la giustizia. Chi ci presenti adesso? Sì, l'artista della settimana è Axl Rose, che è il cantante principale dei Guns N' Roses, la band statunitense che suona rock, famosissima. Il brano di oggi è Sweet Child O' Mine. E Axl Rose perché? Perché lui? Perché, guarda, ti racconto un episodio che occupò le pagine di giornali di mezzo mondo quando il 2 luglio del 91, durante un concerto, vide un ragazzo scattare una foto, a quell'epoca naturalmente non c'erano i cellulari, e lui chiese alla security di buttarlo fuori. Evidentemente non voleva essere fotografato. Quando vide che la security non reagì alla sua richiesta, decise di occuparsene personalmente, quindi si gettò letteralmente dal palco sull'individuo per prendergli la telecamera. Il brano è famosissimo, ma purtroppo è diventato famoso anche questo episodio. Ascoltiamolo. Rieccoci, bentornati sulle note dei Guns N' Roses, siete sempre su Liberi Dentro Eduradio e ora la nostra finestra dal mondo con Antonella ci porta in Marocco. Sì, Caterina, vi porto in Marocco perché in Marocco c'è stato un parto record il mese scorso e sono nati 9 gemellini. Alcuni pesavano 1 chilo poco più, altri addirittura solo 500 grammi, ma in realtà sono nati tutti in buone condizioni e sono nati ovviamente un po' in anticipo, una decina di settimane d'anticipo in realtà, da una donna maliana di 25 anni che si chiama Halima Cisse, che è stata ospitata da un ospedale marocchino. Quindi una cosa veramente eccezionale. Ma riusciranno a sopravvivere tutti e nove? Guarda, le loro prospettive di vita dipendono molto anche da come si sviluppano, fondamentalmente, perché resteranno in incubatrice per almeno 2 o 3 mesi, almeno questa è la previsione che fa il dottor Youssef Alaoui, direttore della clinica Ayan Boria di Casablanca, in cui sono nati, in cui continuano a essere ricoverati. Bisogna anche dire che sono rari i casi in cui gemelli così numerosi possono sopravvivere tutti. C'erano riusciti per pochi giorni, in realtà. Quelli di altri due parti con 9 figli, uno in Australia nel 1971 e un altro in Malesia nel 99. Questo caso supera quello degli 8 dati alla luce da una donna in California del 2009, indicato come record dal Guinness dei primati, per dirti. In quell'occasione i bambini sono stati concepiti in vitro, però pare che in questo caso non sia avvenuto. Intanto sono nate 5 femmine e 4 maschi. E Halima Cisse, la mamma maliana, che tra l'altro aveva già una figlia, è diventata famosa in tutto il mondo. Certo, è così anche perché ormai quando si sente parlare di natalità i dati sono allarmanti, purtroppo al contrario, perché pochissime fanno i figli in questo momento. Infatti ti chiedo se ha fatto ricorso a trattamenti di fertilità e se è possibile concepire naturalmente 9 gemelli. Dunque, il parere di Antonio Ragusa, che è il direttore del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Roma, è un po', diciamo, perplesso. Lui dice che gli torna un po' difficile credere che siano frutto di una gravidanza spontanea e che la madre non abbia fatto ricorso ad alcun trattamento di fertilità. Se così fosse, sarebbe un vero e proprio miracolo. Se invece il trattamento c'è stato, in ogni caso è un primato. Infatti dice che secondo lui rimanere gravide spontaneamente di 9 gemelli sarebbe davvero quello che gli scienziati chiamano il cigno nero, cioè l'evento raro dal punto di vista statistico, estremamente poco probabile e poco prevedibile. Se invece c'è stato il ricorso all'inseminazione, la situazione comunque sarebbe eccezionale, anche perché la donna si è esposta a rischi molto alti. Comunque, secondo il professor Allawi, a cui noi vogliamo credere, non ha fatto ricorso ad alcun trattamento di fertilità. È stata trasferita alla 25ª settimana di gravidanza, anche grazie all'intervento del governo del Mali. Tu sai che il Mali è uno dei paesi dell'Africa più poveri. L'equipe medica l'ha seguita moltissimo e l'hanno trascinata fino alla 30ª settimana. Poi, ovviamente, c'è stato il cesareo e sono stati coinvolti 10 medici e 25 infermieri. Alawi ha rivelato che i sanitari sono dovuti intervenire purtroppo anche per riportare sotto controllo una forte emorragia, ma che poi la situazione si è, diciamo, aperta positivamente. Quindi una storia veramente incredibile. E che musica abbiamo questa settimana con te, Antonella? Vi vorrei proporre un artista del Niger che canta musica tuareg un po' rivisitata e che ha pubblicato ultimamente un disco. L'artista di cui parliamo si chiama Mdou Mokhtar e appunto è un riformatore, un rivoluzionario della musica tuareg che ascolterete. Ben ritrovati, sempre su Liberi Dentro Eduradio. Questa mattina abbiamo un'altra ospite qui con noi, nuova. Lei è la dottoressa Elisa Mauri, buongiorno. Ciao, buongiorno. E facciamo questa chiacchierata a partire dal libro pubblicato da poco, Perché il carcere? costruire un immaginario che sappia farne a meno, edizioni sensibili alle foglie 2021. Un libro pieno di perché, come raccontavo anche con Maria Inglese in una precedente intervista, perché ha lo scopo di indurci a sospendere un po' il giudizio su chi è in carcere. Questo libro quindi ci invita a parlare di carcere, poiché i detenuti appartengono alla società a tutti gli effetti e in essa devono tornare, tenendo conto che la soluzione non è la ghettizzazione, perché questo non porta né a quella rieducazione tanto voluta dalla Costituzione né alla sicurezza. Allora, una prima domanda, un primo perché allora che volevo farti, Elisa, nel tuo libro ci inviti a sospendere il giudizio sui detenuti. Come mai, secondo te, come società non riusciamo a fare a meno di pensare al carcere come dispositivo che punisce la pena? Allora, grazie, perché è una domanda molto bella. Allora, io credo che il carcere sia il figlio legittimo di una forma mentis, di un modo di pensare che noi come società abbiamo. Foucault parla infatti di una società carceraria, quindi di una società che è basata sostanzialmente sull'attività del giudicare e sul potere normalizzatore. Sono due modalità che ci consentono da una parte di prendere distanza da alcune questioni, dall'altra di incasellarle e di deresponsabilizzarci comunque a livello collettivo. Io penso che appunto il carcere sia proprio la modalità più esplicita ma anche più violenta di questa modalità di pensiero, ma che diventa poi anche una modalità chiaramente di organizzazione sociale, e Foucault insomma in Sorvegliare e Punire lo mette in evidenza magistralmente, quindi un po' lo spunto di riflessione credo che sia un pochino questo, ecco. E nel tuo libro parli anche di possibili soluzioni che non sono chiaramente l'isolamento e la ghettizzazione, che portano invece alla creazione di legami sociali sani e saldi. Ma com'è possibile tutto questo? Allora, anche in questo senso io penso che sia chiaramente un cambiamento che debba avvenire su più livelli, però diciamo che io, la mia soluzione in qualche modo anche grazie a questo libro è un po' quella di sensibilizzare e di fare cultura, quindi di iniziare appunto come dicevi tu a farsi delle domande, no? Ed è il motivo per cui questo libro è pieno di perché. Credo infatti in un cambiamento che possa avvenire dal basso, quindi che possa essere promosso da tutte le persone a partire dal proprio specifico e dal proprio quotidiano. E poi un altro spunto di riflessione che penso possa essere importante per, diciamo, appunto promuovere dal basso questo cambiamento è forse quello di sentirsi un po' meno innocenti, no? Cioè non pensare che insomma chi sta fuori dal carcere è buono e chi ci sta dentro è cattivo. Ecco, il mondo è un po' più complesso di così. È una grande verità. Di solito noi chiediamo ai nostri ospiti di lanciare un brano, quindi questa volta tocca a te. Ok, allora ho scelto come primo brano Don Raffaè di De André, che insomma mi sembra perfetto. Grazie, ascoltiamo. Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carcere Rovinè. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E a centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papà, mi spottone mi leggo giornale. Consiglio con Don Raffaè, mi spiega che pensa e bevimo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno a fa. Qua ricetta che ci ridella, compagni di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. Quell'uomo certissimo immenso, io chiedo consenso a Don Raffaè. un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Un trassessore che Dio lo perdona, un 30 ai rullotti ci alleva i visori. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, pulito e spremuto, pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. Qua ricetta che a Ciccirinella compagni di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. Qua ricetta di Ciccirinella compagni di cella precisa mamma. Rieccoci, bentornati sulle note di De André e il brano Don Raffaè lanciato dalla nostra Elisa. Stiamo parlando dei perché sul carcere, a partire dal suo libro Perché il carcere, costruire un immaginario che sappia farne a meno. E allora ti chiedo, che compito abbiamo noi come cittadini per cambiare un modo di pensare queste strutture e pensare anche alle persone che le abitano? Perché tutto questo in qualche modo ci deve interessare? Ok, allora, io penso che dobbiamo partire da una presa di consapevolezza, che poi in realtà ne contiene un'altra, quindi poi alla fine sono due. Da una parte il fatto che l'opinione pubblica ha veramente un grande potere politico, e sulla questione, secondo me, legata al carcere, alle sue riforme, eccetera, si sente molto questa influenza, insomma, del volere del popolo, mi viene da chiamarlo così. E un'altra conseguenza di questo, sempre per promuovere un po' l'idea di un cambiamento dal basso, è che la politica è qualcosa di quotidiano, cioè noi facciamo politica anche quando scegliamo dove prendere un caffè al bar o dove comprare o non comprare un vestito. Quindi io credo che bisogna iniziare ad essere consapevoli, no, di queste due importanti questioni, e in modo tale da direzionare in maniera più consapevole appunto le nostre scelte. Per cui, rispetto alla questione del carcere, quello che si potrebbe fare, no, concretamente, è per esempio magari anziché comprare il pane al supermercato, potrebbe essere quello di andare a comprare il pane magari in negozi che si avvalgono di persone in misura alternativa al carcere. Questo può essere un modo. L'altro modo è appunto quello magari di provare a sensibilizzare, no, perché si sono fatte delle letture, perché si hanno avute delle esperienze, perché ci si è fatti delle riflessioni, delle domande a riguardo. E quindi ecco, un po' delle azioni di questo tipo. Dall'altra parte, l'altra domanda è perché tutto questo ci deve interessare, perché credo che la marginalità, che è poi, diciamo, secondo me quella che poi porta le persone, no, comunque a compiere reati, è qualcosa di cui facciamo esperienza tutti nella nostra vita, chi più, chi meno, chi in maniera più profonda, chi magari in maniera più superficiale, però comunque tutti credo che una volta nella vita ci siamo sentiti marginali, e quindi penso che appunto, come dicevo prima, in realtà nessuno è innocente, nessuno credo si sia mai sentito completamente inserito, quindi penso che sia un pochino questa la chiave, no, di volta. Molto, molto giusto. Della serie non esistono buoni o cattivi, bisogna cercare di mettersi le lenti un po' tutti e cercare di vedersi, come dire, uguali alla stessa maniera. Ti ringrazio tanto, spero tornerai a trovarci su Eduradio e magari anche per le rubriche di approfondimento, e ti chiedo di lanciare l'ultimo brano di oggi. Allora, ho scelto in questo caso La libertà di Gaber, anche questo mi sembra un brano, insomma, calzante. Grazie per avermi invitata. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale,